Bene, direi che possiamo dare inizio alla nostra serata. Io ho sempre le mie cartoline qui. Ringrazio i nostri ospiti con questo libro, questo nuovo libro, Il Velo. Abbiamo con noi questa sera l'autore, Flavio Pintarelli, che viene accompagnato in questa presentazione dal giornalista Valentino Liberto, un giornalista di Salto. Come vedete, la biblioteca da sempre si impegna nel creare delle occasioni per incontrarsi, per avere nuovi stimoli nella lettura e soprattutto con uno sguardo particolare rivolto all'Alto Adige, alla nostra terra, ma non solo, insomma, comunque anche al territorio, diciamo, affine, e anche ogni tanto concedendoci degli spazi anche diversi, delle visioni diverse. Comunque in questo cammino la casa editrice, che è qui rappresentata stasera da Aldo Mazza, ci sta dando una mano con tanti libri che abbiamo presentato e presenteremo in un ricco calendario, e con anche molte iniziative che quest'autunno daranno vita ad un vero e proprio ciclo che inizierà in settembre e terminerà a Natale, di conferenze e di presentazioni di libri dedicati alla storia e soprattutto alla storia moderna e contemporanea, quindi per capire, per comprendere meglio il nostro territorio, ma non solo. Inoltre vi voglio ricordare il premio Claudio Augusta, che è partito anche quest'anno, e raccogliamo le tesi di interesse locale scritte in italiano e in inglese. Il termine di consegna è il 12 di settembre, per cui cogliamo ogni occasione per ricordare questa nostra iniziativa. E infine, sempre questa settimana, avremo con noi Paolo Rumiz, venerdì 19 maggio alle 17:30 in questa sala, presenterà il suo libro Canto per Europa. Ma intanto iniziamo la nostra settimana con Flavio Pintarelli, che ringrazio ancora di essere qui con noi, come ringrazio anche il suo diciamo moderatore che lo accompagna questa sera. Vi auguro una piacevole serata e soprattutto vi invito a tornare qui in biblioteca a leggere e a trovarci insieme anche per i gruppi di lettura che organizziamo ogni mercoledì pomeriggio. Grazie. E grazie a voi, buona serata. Grazie. Lasciamo fisso, sì. Sì, o come Fabio Fazio, non ho problemi di voce. Allora, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, e grazie anche da parte nostra alla Biblioteca Claudio Augusta e a questo spazio. Partiamo. Io sono sempre in imbarazzo rispetto agli orari, perché 17:30 parleremo molto di Bolzano, quindi il fatto che iniziamo alle 5:30 puntualissimi senza il quarto d'ora accademico è, come dire, fa parte forse anche questo, di questa presentazione dell'humus letterario. No, io partirei innanzitutto, appunto, ringrazio Flavio Pintarelli per questo libro, che innanzitutto ha una bellissima copertina, quindi parte molto bene. Questo libro che, appunto, in qualche modo la cosa bella e anche l'onore per me stasera di presentarlo è che in questi anni in cui ho conosciuto Flavio ho un po' visto nascere questo libro. Infatti volevo proprio iniziare con una... Sì, ho rotto le scatole, sì, nella lavorazione, lunga lavorazione a più di una persona. E infatti a questo punto di vista volevo un po' partire da un ricordo in questo senso. Io la prima volta che ti scrissi, al 2017, ti scrissi a proposito di un testo che tu avevi pubblicato sul settimanale internazionale. È un testo sul Sutriolo, aveva un titolo che già anche quello, un po' come questo titolo e questa copertina, parlava già da solo, era Diario di uno scavo sotto la perfezione dell'Alto Adige. Ed era un articolo che in qualche modo, appunto, scavava dietro quella che è l'apparenza e la narrazione, diciamo, prevalente, che soprattutto in Italia, soprattutto negli ultimi anni, si era sviluppata attorno alla nostra terra, una terra ben amministrata, in cui, insomma, è tutto molto efficiente, è sostenibile e così via. E già in quel testo tu, appunto, quel testo iniziava con un passaggio di confine, un ritorno in qualche modo in Alto Adige, a Bolzano, anche proprio materialmente, in macchina, e il tema del ritorno in Sutriolo, di una persona che non vive per un po' di tempo in questa terra, è molto presente in questo libro. è presente perché è presente anche nella biografia di Flavio. Flavio, tu hai studiato fuori, come molti bolzanini, sei stato a lungo fuori in Italia, come si suol dire da noi, è anche il protagonista di Il Velo, un copywriter di nome Alex che appunto dopo 10 anni a Siena torna in macchina, ci ha anche raccontato questo, in Alto Adige, e torna poi in un luogo che in qualche modo teme, no? teme nella misura in cui lo dice nelle prime battute, teme di restare bloccato, teme che lo soffochi. Quindi è un ritorno che all'inizio derubrica in vabbè, sa una cosa poco tempo, sa una cosa provvisoria. E qui torno un attimo al punto anche che di un altro momento in cui ci siamo parlati, quando uscì un altro libro poco tempo fa, Lingua Madre, di Maddalena Fingerle, in cui questo tema del ritorno in Alto Adige c'è anche lì, e quando lessi quel libro prima del tuo, io mi ricordo stavo per tornare in Alto Adige anch'io e ho pensato con angoscia un po' a questo ritorno. Ecco, per iniziare diciamo a farti parlare e chiudere questa mia lunga introduzione, il ritorno, come l'hai, perché insomma, cioè, come l'hai inserito in questo libro, come è nato questo elemento? Allora, il ritorno, questa è un'ottima domanda che entra immediatamente di testa nel cuore di uno dei temi del libro. Il ritorno è un'esperienza che la stragrande maggioranza dei miei coetanei, delle persone che conosco, ha sperimentato nel suo rapporto con la città. Prima o poi quasi tutte e tutti sono ritornati a Bolzano da un periodo passato fuori. Chi ha fatto un determinato periodo, un determinato percorso di studi, chi ha fatto determinate esperienze, a un certo punto sperimenta l'andare via da Bolzano. Ci sono generazioni che per tantissimi anni, decenni, si sente? Sì, no. Forse no. Ah, che per tantissimi anni, se non addirittura decenni, a un certo punto della loro vita andavano via e rientravano dopo aver passato 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni fuori. Quindi era un'esperienza comune a tante persone che conoscevo ed era un'esperienza su cui ci eravamo confrontati tante volte. Cosa significava ritornare? Che tipo di aspettative avevamo? Cosa abbiamo trovato al nostro ritorno? Cosa ha trovato chi è tornato prima degli altri? Perché magari qualcuno ha interrotto un percorso di studio universitario prima degli altri, è tornato, si è costruito una vita. Che rapporto avevamo con chi invece era rimasto? Come si era evoluta la loro vita rispetto alla nostra? Che tipo di esigenze e bisogni avevano? Come le due cose non collimavano? Quali differenze cominciavano a scavarsi fra le persone che magari invece avevano vissuto tanto tempo insieme, avevano fatto tante esperienze insieme prima? Quindi questa idea di un ritorno, di una anabasi in un certo senso, questo era il titolo di lavorazione del capitolo che hai citato, per me non poteva che non aprire un testo di questo genere, e non poteva che non aprire un testo come il reportage di Internazionale che hai citato, che di fatto concretamente costituisce il nucleo da cui Il Velo poi è originato, non solo in termini di temi, situazioni che poi ritornano, ce ne sono due o tre di quel reportage che poi ritornano nel libro, elaborate, riscritte, ripensate, ma proprio in termini concreti. Il Velo nasce inizialmente, il reportage per Internazionale nasce, queste sono le famose storie di internet. Il reportage su Internazionale nasce per puro caso. Nasce perché pochi mesi prima che uscisse c'è stato il referendum costituzionale clamorosamente perso da Renzi. Dico clamorosamente perso da lui perché lui l'ha personalizzato. Christian Raimo fa un commento su Facebook e si chiede: com'è possibile che in Alto Adige abbia vinto il sì, in tutto il resto d'Italia abbia vinto il no? Sarà mica per il welfare dell'autonomia, che è un po' la spiegazione di Sidatti o qualsiasi fenomeno. tasso di natalità, welfare dell'autonomia, eccetera. Io gli risposi, no, guarda, secondo me banalmente è pure disciplina di partito. Christian mi scrive in privato e no, è abbattuta, gli aggiunsi nel commento e gli dissi, però è un concetto che se vuoi espando in 20.000 battute. Christian mi scrive e mi dice, beh, fallo, te lo pubblico su Internazionale, lui all'epoca era editor della rivista, il pezzo esce, le battute da 20 diventano 40.000, il pezzo esce, se ne parla molto, suscita dibattito, è credo ancora la cosa che io ho scritto per cui vengo ricordato di più, spero che la prossima sia un bello, assolutamente. E a quel punto Christian mi riscrive, all'epoca collaborava con La Terza, e mi dice, senti, facciamo insieme un contromano su Bolzano per La Terza, ce n'è uno su Merano, ma secondo me non è buono, tu hai tutti i numeri per scrivere un contromano, facciamo questa cosa. Io mi butto un po' alla bersagliera perché non avevo minimamente idea di come si progettasse un libro. Christian Rhyme è una persona a cui voglio tantissimo bene, ha tantissime qualità, di sicuro non quella di essere strutturato nel seguire i progetti, fa tantissime cose, pure troppe, quindi mi lascia un po' così in balia di me stesso. Presentiamo prima un indice alla Terza, storco nel naso, poi lo rivediamo il progetto, nicchiano, poi mi dice, beh, fai almeno 30.000 battute così almeno vedono come scrivi, lo stile, eccetera. Fatto sta che alla fine la pista con La Terza si raffredda, ma io avevo già un bel po' di materiale, mm-hmm. quindi decido di andare avanti, quel materiale diventa il materiale preparatorio da cui poi con una successiva elaborazione esce fuori la bozza di quello che è diventato il velo. Per cui questo un po' per raccontare come è nato, ma appunto richiudendo rispetto alla domanda, il ritorno è un'esperienza che tante e tanti hanno fatto rispetto a Bolzano, il loro rapporto con Bolzano, quindi per me era importante metterla in scena in un romanzo che andava a toccare il mio rapporto, la mia relazione con la città. E qui citando Contomano, la collana appunto di La Terza, che per chi non la conoscesse è una collana che descrive le città, ma in un modo un po' inusuale, c'è il problema. In un modo un po' inusuale, cioè mescolando in qualche modo registri diversi, cioè facendo un lavoro sì di una guida alternativa a una città o a zona d'Italia, okay. Ma cercando appunto di non farlo in un modo canonico, ma in un modo più, anche a volte più romanzato. In questo caso, rispetto al velo, tu fai questa operazione comunque, cioè c'è uno scambio di registri molto forte, cioè uno scambio, diciamo, un passaggio tra registri diversi, cioè appunto vengono immessi elementi di reportage, ci sono invece parti appunto molto più romanzate e altre appunto anche, poi ne parleremo dopo, più fantastiche, chiamiamole intanto così. Ma venendo a Bolzano, appunto a descriverla in maniera diversa e inusuale rispetto a una tradizionale guida di questa città, il protagonista appunto Alex, che si trova a fare un lavoro diciamo routinario. Va benissimo. A un certo punto si trova nella situazione di doverla scrivere anche lui, una guida più che appunto solo della città, in generale del nostro territorio, ma lo fa chiaramente, cioè gli viene commissionato da una casa editrice di query che ha un certo target, insomma più diciamo patinato, e questo lavoro però lo pone chiaramente di fronte a quella che è la sua sensazione rispetto a questa realtà, cioè lui insomma in modo molto tranchant. Io ci sono ancora sempre. Già i suoi amici in Toscana, lui dice, beh, Bolzano è una città che al di là delle classifiche non è quello che sembra, anzi a me l'impressione che ho è che quel cambiamento che negli ultimi anni è stato descritto e anche autonarrato qua in Alto Adige non ci sia davvero, le cose invece non siano davvero cambiate. La cosa appunto forse anche difficile, questa è la seconda domanda che ti faccio, rispetto a questo libro in cui tu fai l'autore, poi c'è Alex che è questo personaggio che chiaramente lo fa a sua volta, parlare di Bolzano in maniera diversa, diciamo, come ti sei confrontato con questa cosa, proprio perché questo è appunto la sfida che in questi ultimi anni un po' forse sta diventando un tema anche nuovo, in qualche modo che viene articolato in una nuova scrittura, c'è chi ha parlato di una, diciamo, nuova scrittura altoatesina, forse questo è eccessivo, ma diciamo almeno si fa un tentativo di uscire appunto da questo, cioè di togliere il velo e provare a fare questo. Allora, tengo separati i due temi, però li vorrei affrontare entrambi perché secondo me sono importanti. Allora, sì, Alex, il protagonista del libro, a un certo punto riceve una commissione. Lui scrive delle newsletter perché dice ha avuto il fiuto di capire che stavano tornando, questo medium stava tornando in hype, stava tornando qualcosa di importante. Lui scrive queste newsletter, viene contattato da un'editrice che gli chiede, appunto, gli commissiona un reportage per quella che lei per questa guida turistica che insomma vuole rivaleggiare con le grandi guide turistiche del passato, con i Baedeker per esempio, e gli chiede un reportage che diventerà il cuore di questa guida turistica, che racconta il cambiamento, vuole raccontare un certo cambiamento dell'Alto Adige. Solo che Alex ha la sua visione, è un autore, ha la sua voce, il suo stile, il suo taglio, e forse in questo c'è l'equivoco, no, che si crea fra Alex e Arianna Lanzinger, che è l'editrice. Ad Alex non è che non piaccia Bolzano, non gli piacciono certe cose, quindi lui va alla ricerca di una Bolzano dei limiti. Una Bolzano appunto va alla ricerca di questi luoghi liminali che non sono i luoghi delle cartoline, non sono i luoghi del turismo, ma sono i luoghi della vita. Per cui nel libro ritorna il concetto di Edgeland, che è un concetto che introduce Simon Sellars in Ballardismo applicato, è quella zona della città in cui la città si sfrangia nella campagna e la campagna si prolunga un po' nella città, ma non è ancora né l'una né l'altra, e sono dei luoghi in cui appunto accade l'impensabile in Sellars. Ci sono delle risse con dei personaggi violentissimi, si incontrano gli alieni, ci sono esperienze extrasensoriali, e Alex cerca proprio quei posti lì, ma come cerca dei personaggi limite, delle situazioni limite. A un certo punto Alex decide di andare a intervistare uno dei biker che sono stati coinvolti nell'omicidio dei primi anni 2000, nella faida che si è consumata nei primi anni 2000, e quindi lo cerca, va a intervistarlo, parla con lui, si confronta con una persona che è completamente in un altro mondo rispetto al suo mondo di trentenne impiegato dell'economia della creatività, dell'economia digitale, e ne resta incredibilmente affascinato da questo mondo completamente altro, da questo insieme di valori che lui non può capire, ma che in un certo senso lo colpiscono, però sono completamente diversi da quelli dei suoi coetanei, delle persone che lui frequenta. Quindi il racconto di Bolzano che emerge è ovviamente da quella che è la cartografia che ne fa Alex, che poi è anche una cartografia dei miei luoghi preferiti di Bolzano, è un racconto alternativo dove appunto si vanno a cercare delle zone limite, delle zone che non sono raccontate, ma secondo me delle zone in cui c'è la vita. In realtà questo è qualcosa, un tema che per me è caro. In questo momento sto lavorando a un video che farà parte di un'iniziativa del gruppo di lavoro di Museion Art Club, di cui faccio parte, che presenteremo a novembre, dove si va esattamente a lavorare sulle immagini di alcuni quartieri che non sono né centrali né considerati particolarmente rilevanti, ma che per me sono quartieri straordinari, dove c'è appunto una vita, delle forme di vita diverse che non sono quelle che ci vengono raccontate dalle narrazioni egemoni dominanti. E qui entra il secondo tema che tiravo in ballo con la tua domanda, perché comincia ad apparire una prima timida fioritura di narrazioni locali che secondo me provano a confrontarsi in modo più compiuto, più consapevole, a relazionarsi in modo più compiuto, più consapevole con quello che è il dibattito letterario contemporaneo italiano e non solo. Ok, citato Lingua Madre. Lingua Madre è un testo che, pur con delle riserve, io credo che fosse un testo necessario perché c'era un'autrice che poteva essere riconosciuta in modo specifico come Bolzanina, che faceva un testo di lettura contemporanea non solo ambientato a Bolzano, ma anche che cercava di mettere in scena alcune specificità tipicamente bolzanine, ma che ha avuto la forza di parlare e di imporsi nel dibattito letterario nazionale. Ed era in un certo senso anche quello che sto provando a fare io con questo romanzo: andare alla ricerca di uno specifico letterario altoatesino o atesino tout court, per rubare un concetto a Davide Gritti e Nicolò Tabarelli, che sono stati gli editor di Manarot, questa rivista che è stata attiva dal 2021 fino al 2022 con 4 numeri, che ha fatto esattamente questo: cartografare alcuni autori che venivano espressi dal territorio, portavano tematiche, stili, voci, immagini che erano molto legate alla specificità atesina, quindi provincia di Trento, provincia di Bolzano, ma che avevano tutti non solo l'ambizione ma anche la capacità di entrare in relazione con quel dibattito, col dibattito letterario italiano più contemporaneo. Questo credo che sia importante farlo, perché più narrazioni diciamo alternative e complementari alle narrazioni dominanti fioriscono, più diventa facile anche per noi stessi altoatesini poter negoziare un'identità con un repertorio di immagini, di temi diverso da quello della pubblicità, per esempio. E io credo che sia qualcosa di importante per prenderci cura di noi stessi. Spicchiamo appunto, e anche il velo effettivamente viesca, riprendendo quello che stavi dicendo. Comunque non so se funziona, vabbè. Mi devo avvicinare estremamente. Ecco, allora tengo in mano. Tu hai parlato di luoghi di Bolzano che appunto di vita. Ora in realtà mi è venuto in mente uno in cui c'è una persona che invece in vita non è più da diversi millenni, perché Alex non torna da solo in Alto Adige, non è da solo, è con la sua compagna Serena, e adesso, andando proprio nel libro, c'è un passaggio in cui, mentre appunto Alex sta realizzando questo lavoro per Arianna Lanzinger, lo interrompe, c'è un momento in cui lo interrompe per andare a visitare il museo archeologico di Ozi. E in questo momento appunto c'è uno scambio interessante, perché Alex ricorda la cosiddetta maledizione di Ozi. La questione della maledizione in realtà ritorna in questo libro, proprio il termine e il concetto. Ne parla, lo racconta Serena, cioè lo illustra, cosa è successo, le diverse figure che sarebbero scomparse a seguito della maledizione, e poi lo associa a un elemento, diciamo invece, naturale, fisico, del nostro territorio. Vuoi leggerlo tu o leggo io? Dai, fammelo leggere, dai, che vai, mi diverto. Ti piace? Dimmi da dove volevi che ma iniziassi. Ma questa cosa va bene. Qua da qualche parte, sì. Poi tu l'hai scritto. E tu pensi sul serio che la mummia abbia avuto un ruolo in tutto questo? Mi chiese quando ebbi terminato quel sinistro elenco. I terreni di questa provincia sono saturi di radon. Iniziai a spiegare con un tono grave nella voce. Radon? È un gas che si forma nel terreno a causa del decadimento dell'uranio presente nei porfidi e nei graniti. La zona in cui è stato ritrovato Ozi è una di quelle con la maggiore concentrazione. Il radon è radioattivo è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Quel cadavere è rimasto sepolto là sotto per millenni. Non mi stupirebbe se avesse iniziato a fare quello che l'Alto Adige fa da sempre, cioè permettere alle cooperative come quella per cui lavoro di campare di fondi pubblici facendo il minimo indispensabile? Uccidere la speranza, dissi io, e lasciai che mi guardasse senza capire fino a che punto fossi serio. E qui c'è invece un'altra parola che ritornerà molto nel libro, cioè quello della speranza. Perché questo poi, secondo me, l'ha spiegato molto bene in una recensione Gabriele Di Luca sul settimanale FF. Questo libro appunto parte anche da delle basi, diciamo, teoriche, diciamo così, usiamo questa parola, abbastanza chiare, anche citate esplicitamente all'interno del testo di Flavio. Anzi, io mi permetto proprio di fare a mia volta una lettura, così ne facciamo due letture centrali in questa presentazione. Allora, pagina 135, in cui invece Alex parla del conflitto etnico. Il conflitto etnico è... Il conflitto etnico è hauntologico. Si pronuncia così, tra l'altro? Sì. Hauntologico. Il fascismo è caduto almeno 3 generazioni fa e saranno 30 anni che non scoppia un traliccio. Eppure, in qualche modo, continua a esistere il conflitto. Agisce anche in assenza di manifestazioni fisiche. Ci condanna a ripetere parole, immagini e posture. È così che ipoteca il futuro di tutti noi. L'idea stessa dell'Alto Adige contemporaneo è un prodotto del conflitto etnico, o meglio, della sua rimozione senza risoluzione. È per questo che sono andato a caccia di storie che fossero capaci di mettere in crisi tutti i cliché che definiscono la nostra terra. Solo in questo modo potremo esorcizzare il conflitto etnico, rompere il loop e inventare il futuro. In speranza, futuro, assenza di futuro, qui appunto riecheggia, tu lo citi, Mark Fisher, realismo capitalista, cioè l'idea che non ci sono alternative, però questo tu lo, cioè Alex e tu, diciamo, lo applicate alla nostra terra. Ecco, questo che, diciamo, un elemento chiave, fosse molto centrale del tuo libro, vorrei che lo spiegassi ovviamente meglio tu. Sì, sì, è un elemento chiave, un elemento centrale. Io sono affascinato dal pensiero, dal lavoro di Mark Fisher, non solo dal suo, ma in generale da buona parte del lavoro che hanno fatto gli accelerazionisti, per usare questo termine un po' cappello. Proprio sulla critica e l'analisi della relazione fra modernità e postmodernità. Fisher sostanzialmente fa, appunto, appoggiandosi a Derrida, Deleuze e altri pensatori, di fatto fa una critica della modernità, cioè dice la modernità aveva con sé un'idea di futuro, quell'idea di futuro di fatto non è più realizzabile, è morta, ma continua a infestare il presente, continua a riproporsi sotto una serie di forme che però sono forme esauste, sono forme che non hanno più spinta, quindi si è creata l'idea che non ci sia un'alternativa alla modernità, dobbiamo ripetere a tutti i costi quei modelli che hanno funzionato una volta ma non funzionano più, non riescono più a funzionare, e questo ci blocca in un cerchio, in un loop, in un vortice temporale da cui noi non riusciamo a uscire. Non esiste più l'utopia, non esiste più un futuro utopico verso il quale tendere e quindi per il quale sperare, per il quale lottare, per il quale provare a costruire qualcosa. Quindi si sviluppano tutta una serie di fenomeni di apatia, di depressione, questo dice ovviamente Fisher. Per me in Alto Adige il conflitto etnico è ontologico, funziona in questa maniera qui. Ok, io sono convinto che il conflitto sia un potente motore di cambiamento nella società, così come è il motore della narrazione. Non esiste racconto senza conflitto, ok? Non esiste creazione del futuro in una società senza conflitto, ok? Per quanto possa essere doloroso. Ok, perché nessuno nega che quello che è successo negli anni 60 in Alto Adige sia stato doloroso, però quella situazione, quel conflitto spingeva avanti la società, faceva nascere delle energie per contrastare quel conflitto, nascevano delle esperienze di valore, nascevano delle esperienze intellettuali, politiche, sociali, che hanno lasciato il segno. Mano a mano che il conflitto si è andato a esaurire nelle sue forme più violente, più virulente, che cosa è rimasto? Sono rimasti i simulacri, è rimasta la questione della toponomastica. Ok, ogni tanto arriva qualcuno, cancella una scritta su un cartello, qualcun altro dice non devono toccare le scritte. A cosa è funzionale questa cosa? A mantenere in vita, mio punto di vista ovviamente, alzo le mani, a mantenere in vita delle carriere politiche che sono esangui, cioè persone che non hanno più niente da dire, poco da portare in questa società, un'analisi del presente ormai spremuta come un limone, e quindi si continua a tenere in vita questo gioco di simulacri. Non che il conflitto etnico sia stato risolto, perché sicuramente ce ne sono sotto la cenere, covano ancora delle braci, però le forme in cui si esprime, quelle sì, secondo me, sono esauste, non creano nemmeno una reazione che è in grado di spostare avanti alcuni aspetti della società. Ci sono altre linee di faglia, secondo me, che si stanno aprendo, che si sono aperte in questi anni, che sarebbe opportuno analizzare, raccontare, lavorarci artisticamente, politicamente e socialmente. Quindi sì, io ho usato quel bagaglio teorico per fare una riflessione e poi ho provato a riportare questa riflessione in quelle che sono le riflessioni, i dibattiti che i miei personaggi fanno all'interno del libro. C'è problema, nessun problema. Quasi mai per il telefono, so, per il forma anche suona. Mettete il modalità volo come in aereo. E appunto Alex poi nella sua, diciamo, esperienza, mentre sta scrivendo, le sta raccontando le sue storie, appunto si rende conto che mentre lui cerca di scavare in queste faglie in qualche modo, è circondato da, invece, da una situazione di un po', come dire, incapacità di vedere oltre appunto quell'immagine in cui parlavamo all'inizio. Però è interessante che invece lui ha a un certo punto un legame con qualcosa di ancora più profondo rispetto a questa terra, cioè non c'è solo appunto l'appartenenza dell'essere bolzanino a essere di nuovo qua e conoscere, diciamo, gli elementi di questa nostra storia contemporanea, quanto invece andare ancora più indietro, cioè diciamo, avere un legame con le viscere, che avviene in una versione appunto che so definire in qualche modo mistica o soprannaturale, insomma, soprannaturale è il termine migliore, il termine più corretto, facendo anche appunto, e tu fai riferimento a elementi appunto proprio della nostra, chiamiamola tradizione, o comunque delle nostre tradizioni rispetto all'Alto Adige, legate al mondo religioso o arcaico a livello di popolare, ecco. Ed è molto interessante, perché comunque questo ritorna un po' nella tua scrittura, ritorna anche in altre cose rispetto ad esempio all'elemento, l'abbiamo visto col radon, quindi il sotterraneo, il porfido, quindi proprio le radici, la struttura base più recondita di questa nostra regione. Ed è molto interessante perché appunto si passa dal guardare a cercare un futuro, ma anche con una maledizione dal passato, che non è solo il passato quello del Novecento, ma anche proprio il passato più passato del Sutteolo. Sì, esattamente, c'è un elemento soprannaturale nel romanzo a cui io tenevo particolarmente. Non volevo in partenza che questo romanzo avesse solo una referenzialità legata al presente, all'attualità, ma volevo che avesse qualcosa di più. Intanto perché mi diverto a scrivere e a strabordare nel genere, per cui per me è un divertimento farlo e quindi mi piace fare le cose divertenti. Dall'altra parte, perché penso che alcuni delle esperienze letterarie più interessanti degli ultimi anni lavorino proprio con questo tipo di elementi, con elementi della letteratura di genere, dell'horror, del fantasy, del fantastico, della fantascienza, il cosiddetto New Weird, o il nuovo perturbante italico, insomma sono etichette che si usano nel dibattito per raccontare questi testi, e quindi mi interessava provare a farlo in questo romanzo, anche perché l'Alto Adige offre comunque una grande quantità di materiali soprannaturali. Nel romanzo ci sono Ötzi, ci sono i Krampus e c'è questa figura, questo spirito della terra con cui Alex si confronta per tutto quanto il romanzo, che in un certo senso appunto emerge dal passato, come hai detto tu, più recondito, emerge proprio dalla dimensione ctonia del mondo, dell'esistenza, e lo confronta. Di fatto lo confronta con tutto quello che è il peso, quelli che sono i fantasmi che questa terra si porta dietro. Alex deve liberarsi in un certo modo di questo peso, di questa relazione con il passato, per poter andare avanti e provare a inventare un futuro, quantomeno un futuro per sé, probabilmente quello, il futuro che lui cerca di provare a inventare per l'Alto Adige non può farlo da solo. Pensare che l'individuo possa inventare il futuro di una terra, di una società, beh, è l'illusione individualista in cui Alex cade con tutte le scarpe, perché è un compito necessariamente collettivo quello di inventare il futuro, quindi lui da solo sicuramente non lo può fare. Questo spirito della terra ha la forma, lo diciamo, di Aubet, Cubet e Quere, che sono tre sante, ma che sono una santa sola. È un culto diffuso in Valpusteria, ma non solo, c'è una chiesa dedicata a Maranza, esatto, alle tre sante, Aubet, Cubet e Quere, che hanno una storia molto interessante. Si dice fossero tre giovani donne fuggite dalle steppe dell'est Europa, incalzate dai barbari, che arrivano in Sud Tirolo, in Alto Adige, vengono prima scacciate, poi si stabiliscono appunto a Maranza, e in un certo senso insomma rompono una maledizione, portano i raccolti o la pioggia, adesso mi sfugge. Sono in realtà tre figure positive che però io trasfiguro in tre figure del passato, della tradizione, della terra, tre figure di questo passato rurale contadino che in un certo senso ancora viene rimasticato, rimodulato nella pubblicistica promozionale per vendere il territorio. E quindi Alex si confronta con queste tre figure, a cui in realtà voglio molto bene, Aubet, Cubet e Quere sono meravigliose, che però qui hanno una portata perturbante, non sono sicuramente un incontro piacevole per il protagonista del mio romanzo. E poi sono figure del tempo, nel senso che ci sono le parche, le moire, dietro questa figura di sante c'è Ecate, Vergine, Madre Megera, quindi passato, presente, futuro. In realtà è una figura molto complessa che mi interessava però far lavorare in questo strabordare del romanzo nella letteratura di genere, che di solito è considerata letteratura di seconda categoria e che io invece penso abbia prodotto insomma, risultati notevoli e che vale la pena usare in modo più ibrido e più libero anche in lavori letterari come Il Velo. Tu hai parlato di un certo punto dell'individualismo di Alex, o comunque il fatto che a un certo punto si ficcofonda, diciamo così, nel voler fare da solo qualcosa, e quindi poi questo un po' lo allontana o lo aliena persino dalle figure che gli sono più vicine. E sembra impossibile sfuggire alla maledizione di questa terra, scrive a un certo punto un passaggio così, e la maledizione però che si applica poi sul suo vissuto proprio di tutti i giorni, quindi non solo sul suo lavoro, ma anche sulla sua famiglia, ecco, si vede nel rapporto con Serena. L'abbiamo citata, solo accennato prima, appunto con Serena vivono a Bolzano e affrontano appunto la sfida della maternità, della paternità, del diventare genitori. Lui però appunto c'è una lunga fase in cui questo elemento che poi ma non spoileriamo, va, diciamo, questo elemento lo mette, diciamo, in difficoltà, cioè è un elemento perturbante in qualche modo, e lo è anche il fatto che avvenga, che avvenga qua. Su questo invece metto questo elemento della questa è una cosa che, diciamo, prescinde un po' da quello che ci siamo detti sinora, questo della paternità, o forse no, diciamo, questo poi me lo saprai dire tu. No, allora, ovviamente Alex ha delle relazioni, ha una relazione appunto con la sua compagna, Serena, ed è curioso, tornando alla prima domanda che mi hai fatto, Serena non è una figura che ritorna, è una figura che arriva, non è bolzanina, viene da fuori, viene da esperienze fatte fuori, e quindi ha uno sguardo molto più lucido di Alex sulla sua terra, perché Alex parte con delle illusioni, si confronta fuori con quelle che sono le conseguenze delle sue stesse illusioni, e torna con uno sguardo che è sì critico, sì disilluso, ma non è lucido perché è troppo coinvolto, mentre invece chi arriva da fuori spesso e volentieri ha uno sguardo più lucido, sia in positivo che in negativo, ok? La persona che viene da fuori in Alto Adige può essere o incredibilmente entusiasta o incredibilmente distruttiva, probabilmente tutte e tutti, o entrambe le cose. Ma tutte e tutti conosciamo qualcuno che il posto migliore dove io abbia mai vissuto, oppure santo Iddio, chi me l'ha fatto fare, devo fuggire, mio Dio, che cosa, non mi aspettavo che fosse questo inferno. E quindi appunto Alex negozia la sua identità con Serena, e a un certo punto si trova, il libro si svolge nel tempo lungo di una gravidanza, questo è importante sottolinearlo, sono poco più di 9 mesi, più o meno un anno abbondante, e in realtà nel corso del romanzo Alex si troverà più volte combattuto tra cercare di finire quella che è la sua opera, quantomeno l'idea di opera che lui ha, e cercare di fare quello scatto di crescita che la paternità rappresenta. Questo è il conflitto personale che Alex ha con se stesso, quello che mette in crisi la sua visione del mondo. Per me era importante perché io sono passato attraverso quell'esperienza, credo che sia un'esperienza incredibile sotto tutti i punti di vista, difficilissima, che vale la pena raccontare, secondo me che vale la pena raccontare provando a raccontare una paternità che è una paternità contemporanea oggi. La figura del padre è molto diversa da com'era solo 10, 15, 20, 30 anni fa, e credo che sia opportuno provare a fare racconti di diventare padri, di essere genitori, soprattutto da parte maschile, che provino a mettere in scena altre idee, altre immagini di paternità. Quindi questo è un elemento a cui tenevo nel romanzo, che volevo inserire, e poi di fatto fare un figlio è in un certo modo inventare un futuro, probabilmente non è quello che Alex aveva in mente, però si troverà a un certo punto a doverlo soppesare questo futuro. Ha introdotto in realtà appunto l'ultima parte della nostra chiacchierata. Innanzitutto, a proposito di questa parte, diciamo, di racconto, cioè di questo elemento proprio di vissuto devo dire che la cosa bella di questo libro, per chi diciamo in qualche modo condivide almeno in parte un vissuto simile, di ritrovare degli elementi che comunque in qualche modo di punti di vista che finora non è difficile trovare su carta, ecco, e questo del ritorno con una, diciamo, una storia molto bolzanina in questo senso, veramente, come hai detto tu dall'inizio, tornare con qualcuna o qualcuno che non è di qua e che offre questo sguardo diverso, e questo confronto costante che forse ci aiuta un po' a uscire dalla nostra bolla autoreferenziale. Credo sia fondamentale, perché se non hai un confronto con l'altro, con l'altrove, esiste solo la tua bolla, la tua autoreferenzialità, non c'è altro. Questo non significa accusare nessuno, però è un dato di fatto. Non puoi accorgerti, o comunque fai più fatica, secondo me, ad accorgerti di certe cose se non hai un confronto costante con un'alterità di qualche tipo. E in più, secondo me, questo forse gioca anche un ruolo molto importante nel discorso che abbiamo fatto all'inizio su una letteratura su tirolese o altoatesina che riesca a guardare oltre i confini della nostra terra. Avere questo tipo di confronto, forse un libro come Il Velo, mi auguro appunto sia in grado di trasportare questo confronto anche al di fuori della nostra terra, aiuta un po' a non pensare quello che tendiamo a pensare. Cioè, una delle classiche cose che mi dice la mia compagna Alice è: ma smettetela voi bolzanini, creda sempre che le cose del Sottotitolo non si possano spiegare fuori da qua, no? Questo è un grande errore che tendiamo a fare, e poi però ci stupiamo che qualcuno dica: ma sì, ma lì a Bolzano fa freddo, e però certo, ok, ma cioè, dobbiamo portare a casa questa cosa, le scuole, tutti sono bilingui, le scuole sono uniche, ma perché non raccontiamo bene la nostra terra fuori dai confini dell'Alto Adige? Infatti si deve raccontare l'Alto Adige fuori dai confini dell'Alto Adige, e questo secondo me è fondamentale. Cioè, chi si occupa di narrazione, che sia un scrittore, un regista, un musicista locale, se non ha la dimensione nazionale, che sia italiana o dell'area di madrelingua tedesca, a me non importa, non mi fa differenza, ma se non ha una dimensione che travalica l'Alto Adige nel suo lavoro, secondo me, lo dico in questo caso, lo dico forte, sbaglia, sta facendo un errore madornale, perché sta sprecando una possibilità. Questo per me dovrebbe essere, per me è un'omissione. Cioè, io tutto quello che ho scritto che riguarda l'Alto Adige è stato pensato, proposto e pubblicato per relazionarsi col resto d'Italia. A me non interessa essere il più intelligente, il pesce più grosso dello stagno piccolo. Preferisco essere il pesce piccolissimo di un grande stagno. Mi mangeranno, ci sarà qualcuno sicuramente molto più bravo di me, ma amen, avrò almeno, andrò a giocare in quel campionato lì. Ok, mi giocherò tutti gli anni la salvezza in Serie A, ma sto giocando in Serie A, non mi interessa vincere la Coppa Italia di eccellenza tutti gli anni, faccio a meno. Tornando all'ultima parte della domanda che ti volevo fare, diciamo, immaginare un futuro, non solo nel progetto di coppia di Alex con Serena, ma anche per questa terra. È un punto forse che rompe a un certo punto questa stasi, questa sensazione di non poter in qualche modo immaginare un futuro diverso. Si gioca, in questo forse anche analogamente al tuo testo di anni fa su Internazionale, col confine del Brennero, col Brennero. Tra l'altro, appunto, il tema migratorio in qualche modo ritorna, e forse sempre quello che rompe tutti gli schemi di questa terra. Proprio adesso pensavo pochi giorni fa a tutto il dibattito surreale attorno alla panchina Berloffa davanti alla stazione di Bolzano, che adesso verrà spostata per un periodo per allontanarla dal degrado, ma poi tornerà dov'è dal degrado, tra virgolette, dal degrado, sì. Poi tornerà dove stava prima, ma perché viene riqualificato da Benco, e quindi di conseguenza non sa più degrado dove stava prima, eccetera. Però tutto questo perché ci sono delle persone che ovviamente immagino che a Berloffa davano fastidio le nuvole di Asci, insomma, vabbè. Comunque magari gli piacevano, nessuno gliel'ha chiesto, no, non gli ho possiamo. Esatto. Però posso sempre moderare una seduta spiritica, glielo chiediamo, magari non gli dà fastidio. Questo può essere il sequel. Esatto. C'è lo spirito di Berloffa. Però appunto, c'è, tornando a noi, lì alla panchina Berloffa ci sono molte persone che si trattengono perché passano per questa città o restano in questa città, ma comunque il tema è legato a quello che poi scoppiò qualche anno fa in modo forte al Brennero. Altra cosa va ricordata, comunque il tuo libro è ambientato in una, più o meno negli anni di, cosiddetti anni 10, di questo diciamo, per essere più precisi, il libro condensa gli anni 10 del 2000 in più o meno 12 mesi, esatto. Prendendosi delle grosse libertà col tempo storico, su cui abbiamo ragionato un sacco in fase di lavorazione, poi abbiamo deciso che siccome facevamo fiction ce lo potevamo permettere, e amen, se a qualcuno non piace ne discuteremo, ne litigheremo nelle presentazioni o al bar, ma va bene così. E al Brennero a un certo punto avvenne una cosa grossa che quella sì travalicò decisamente i confini dell'Alto Adige anche a livello mediatico, e tu la racconti in un certo modo dentro il libro. Sì, al Brennero avviene non una, ma ne vengono più di una serie di manifestazioni, quando il governo austriaco di fatto blocca i profughi al confine, creando enorme sgomento e un po', come posso dire, sparigliando le carte mentali del Sudtirolo, perché insomma, è il governo austriaco che chiude il confine del Brennero, quindi noi non possiamo più passare, insomma, questa cosa fu per molti destabilizzante, ma a un certo punto il Brennero diventa, se non il centro del mondo, il centro del dibattito italiano, e cominciano ad arrivare questi strani personaggi. Prima arrivano i disobbedienti, prima arrivano i disobbedienti del nord-est area Global Project, poi arrivano i disobbedienti bolognesi area TPO, poi arrivano gli anarchici, che per chi non è avvezzo alla politica di area, praticamente dice sì, sono i centri sociali, in realtà sono i centri sociali ma con tutte le loro sfumature, gli odi, dice perché non hanno fatto una manifestazione unica, ne hanno fatte tre, perché si odiano, non si possono vedere, si sono rubati a vicenda le fidanzate, eccetera. E quindi sì, c'è una scena ambientata durante una manifestazione, ma che è quella degli anarchici, ma in realtà prende elementi da altre manifestazioni, in cui dal punto di vista narrativo si cementa il rapporto tra Alex e la sua spalla, che è un personaggio di cui abbiamo parlato poco, che si chiama Manfred, che è un personaggio importante perché di fatto fa da contraltare ad Alex. Se Alex è il personaggio che è ritornato, Serena è il personaggio che è arrivato, Manfred è il personaggio che è sempre stato in Alto Adige, non si è mai mosso, non ha fatto l'università. A un certo punto intorno a lui c'era il vuoto, i suoi compagni di scuola non c'erano più, lui è rimasto da solo, si è inventato un lavoro, quel lavoro gli ha permesso di viaggiare, ma lui è sempre rimasto qua, si è confrontato in una maniera diversa con l'alterità. Anche Manfred è un personaggio sui generis, se leggerete il libro probabilmente ci riconoscerete qualcuno che conoscete, qualcuno, credo che ognuno di noi abbia un amico simile a Manfred, e a un certo punto Alex dice a Manfred che è fondamentale che loro vadano al Brennero. Manfred è un fotografo. Arianna Lanzinger chiede a Manfred di illustrare con le sue foto, di prestare il suo obiettivo alla penna di Alex, perché così il reportage, la guida turistica verrà ancora più bella. E Flavio lo convince e dice: senti, dobbiamo assolutamente andare al Brennero, questa roba è una cosa epocale. E Manfred non è, insomma, non è proprio convinto, e dice: ma insomma, al Brennero, ma ci sarà pericolo? Dice: cosa ci andiamo a fare? È pericoloso? No, no, gli dice Alex, è tutto a posto, andiamo al Brennero. E poi in realtà non va proprio così. Però questa me la fai leggere a me. No, vai. Perché questa è una parte che mi piace. Adesso la trovo. Stavo guardando tutt'altro. Ah, stavi guardando tutt'altro. Poi c'è un'altra lettura che devo fare. Assolutamente. Prima di salutarci. Allora adesso la cerco. Eccola qua. Insomma, come vi dicevo, appunto, Manfred e Alex arrivano al Brennero, il corteo andava raggruppandosi nel piazzale davanti alla stazione. Poco dopo si incolonnò dietro uno striscione su cui c'era scritto «Abbattere le frontiere». Cori e megafonate riempivano l'aria già fredda del primo pomeriggio. «Secondo te servirà?» domandò Manfred mentre iniziavamo a muoverci insieme al resto delle persone. «Che cosa?» chiesi, infilandomi un paio di spessi guanti da lavoro. «Il corteo», rispose. «Secondo te servirà a far cambiare idea al governo?» A volte era così ingenuo che mi veniva voglia di abbracciarlo. «No, non credo che il governo, italiano o austriaco che sia, cambierà idea. O almeno non lo farà dopo questo corteo. Allora perché tutte queste persone sono qui?» Mi ponevo quella stessa identica domanda ogni volta che scendevo in piazza. «Vedi?» Mao diceva che il dovere di ogni rivoluzionario è ribellarsi alle cose sbagliate, perché ci saranno sempre delle cose sbagliate nel mondo, anche dopo la rivoluzione, puntualizzai. «Il fatto è che la rivoluzione non finisce mai, perché essere rivoluzionari significa per prima cosa ribellarsi alle cose sbagliate che stanno dentro di noi». Manfred annuì pensieroso, continuando a camminare. «Ecco perché i rivoluzionari sono pochissimi, ed è per questo che fanno i cortei, per non sentirsi troppo soli», conclusi, cercando di trovare un tono che convincesse anche me di quello che stavo dicendo. Una ragazza minuta ci passò accanto, allungandoci un volantino fitto di scritte. Manfred lo prese, lo piegò con cura in quattro parti e se lo mise in tasca. Il corteo costeggiò le mura del grande centro commerciale per un centinaio di metri, finché la strada non si aprì sulla piazzetta lungo la quale correva il confine tra Italia e Austria, simboleggiato da due cippi di marmo, sospesa in alto sullo slargo. Una passerella vetrata collegava i due corpi dell'outlet da una parte all'altra del confine. Al di sopra di ogni rivendicazione di identità, alle merci si garantiva libero transito, alle persone no. «Sic et simpliciter», un coro, scandito all'unisono dalle voci di chi mi stava accanto, risalì lungo la passerella. «No border! No nation! Stop deportation!» Assiepati dietro alle vetrate, i consumatori osservavano lo spettacolo, riprendendolo con gli smartphone. Un corteo come quello non apparteneva alla routine della mia terra. Per un istante mi sentì come uno di quei canachi impiegati dell'amministrazione coloniale francese che nel 1900 vennero obbligati a mettere in scena la vita degli indigeni all'Esposizione Universale di Parigi. Manfred indicò il cordone di polizia che attendeva poco più avanti. «Speriamo che oggi non siano di cattivo umore», disse ridendo nervosamente. «Non credo che alle bimbe piacerebbe vedermi conciato in faccia come un panda». Io invece mi chiesi che cosa ci facesse la polizia italiana schierata dopo il confine. Tup, tup. La risposta ebbe il tonfo sordo dei lacrimogeni sparati verso l'alto. Caricarono senza alcun preavviso. Il corteo fu preso alla sprovvista e sbandò, mentre i cordoni si sfilacciavano risalendo all'indietro la strada che passava accanto al centro commerciale. In prossimità della stazione i manifestanti più preparati si ricomposero, invitando gli altri a defluire attraverso un vicolo lungo i binari della ferrovia. Lo schieramento della celera avanzava battendo sugli scudi coi manganelli. Chi era stato a Genova nel 2021 ricordava ancora quel rumore, sordo, con preoccupazione. Ci fu una seconda carica. Pur continuando a fronteggiare gli agenti, la testa del corteo indietreggiò nel vicolo. Poco dopo, la massicciata grandinò letteralmente sugli scudi. I poliziotti rincularono. Per un momento sembrò che il blocco potesse resistere all'impeto della carica. Poi il tappo saltò. I cellerini si riversarono sui binari, mentre il corteo si disperdeva, provando a rallentare il nemico. Manfred e io eravamo attardati a ridosso della prima linea. Stavamo per svicolare quando un poliziotto che si era staccato dal suo plotone atterrò un manifestante e gli scaricò addosso diverse manganellate. Lo sbirro era solo. I suoi colleghi lo avevano perso di vista per un istante, ma si preparavano a raggiungerlo. Rimasi impietrito. Poi vidi Manfred scattare al mio fianco. Colpì lo sbirro con un calcio di suola sullo scudo. Quello perse l'equilibrio e indietreggiò un paio di passi. Corsi anch'io. Aiutai Manfred a rialzare il ragazzo. Tutti e tre raggiungemmo il resto del corteo prima che i poliziotti calassero su di noi. Indicai a Manfred un pertugio e, protetti dalle case, raggiungemmo l'auto che era parcheggiata poco lontano. Lui camminava due passi avanti a me. Lo guardai con ammirazione. Rideva e la sua risata tintinnava come una sorgente primavera. Con Manfred appunto avviene questo passaggio che ha un grande significato nel rapporto tra Alex e Manfred, questo... E come lo sottolineo, perché appunto Manfred è quello che resta, è quello che la politica di Aria non l'ha mai vista, un corteo così non l'ha mai visto, eppure è quello che rispetto ad Alex, che quelle esperienze le ha fatte, probabilmente, forse si capisce, nel momento di massima tensione ha la lucidità e la follia allo stesso tempo di tirare un calcio sullo scudo al poliziotto e portare via il manifestante. C'è un senso di giustizia in un certo modo che Alex non ha, una capacità, una freddezza, una lucidità. Non è un personaggio monocorde. Questo mi piace sottolinearlo, perché in realtà Manfred è un po' la spalla, non è che ha una grande personalità. Adesso io gli ho fatto un accento con la R un po' moscia per farlo un po' più divertente, però in quel momento è capace di fare una cosa che Alex, con tutta la sua prosopopea, che cita Mao, che fa grandi discorsi sulla rivoluzione, non è capace di fare. Ed è proprio questo appunto, che poi è come se si accendesse una luce in questo momento del libro, cioè lì si accende una luce, perché sino a quel momento, appunto, ne abbiamo parlato adesso per un'oretta, poi diamo spazio anche alle curiosità o alle domande, sino a quel momento c'è una appunto un'assenza di speranza, un'assenza manca quella luce, lì si accende questa luce, e si accende appunto, come dici tu, da un personaggio come Manfred, che è appunto è il sottiolo in un certo senso, è un sottiolo, ma è sicuramente un sottiolo che esiste. È proprio un sottirolese, cioè non so, è archetipico, è sottirolese archetipico, non so come spiegarlo. E lì appunto questa luce che si accende anche, non solo lì, si accende anche insomma anche fisicamente in un luogo di Bolzano, è una luce che si accende laddove appunto i simboli della nostra storia pesavano sino a quel momento, si accende la speranza, in qualche modo si accende la speranza di fare qualcosa, o almeno di fare, perlomeno di un qualcosa, ecco. Spiegami questo qualcosa forse. Ma allora c'è la speranza di fare, c'è la speranza che si possano accendere luci, questo è il punto. Io credo a torto, perché qualcuno me lo ha detto, però credo me lo abbia detto a torto, dice: tu hai fatto un libro pessimista, spari a zero su tutto. Io non lo sento pessimista, io non credo che il velo sia pessimista. Il velo è estremamente critico con delle cose che a me e ai miei personaggi non piacciono, non mi piacciono proprio visceralmente, non mi piacciono, ma poi ci sono tante cose che io invece apprezzo, c'è tanto ottimismo. Io penso che le cose si possano cambiare, è che bisogna vedere dove è possibile agire per poterle cambiare, questo è il punto. A un certo punto Alex capisce che lui da solo non può, scrivendo un reportage, per quanto lui creda nel potere della parola, non può cambiare una terra da solo, è un'illusione. L'eroe solitario, Capitan America, anche Capitan America, no? Non è mai da solo, ha sempre degli amici intorno, no? La scena dell'ultimo Avengers, Capitan America è praticamente da solo contro l'esercito di Thanos, gigantesco, arriva fino all'orizzonte, occupa tutto, sono tutti i minion di Thanos pronti, e poi iniziano ad arrivare gli altri eroi, ok? Retoricissimo, per carità, però l'eroe, il supereroe da solo non può fare niente, non esiste l'individuo. Questa è l'illusione che ci vogliono vendere, che esista l'individuo e il mercato e non ci sia niente in mezzo. Ecco, Alex di questo si accorge nel modo più doloroso possibile per lui, però allo stesso tempo si apre una luce e dice: ok, c'è qualcosa che si può fare, e si può fare qualcosa collettivamente insieme agli altri. Questo è fondamentale. Anche secondo me non è un libro pessimista, anzi dice le cose in modo chiaro sicuramente, cioè sono delle cose molto chiare, nette, all'interno di uno scenario descritto in un modo chiaro, nel senso che appunto molte cose non le abbiamo toccate stasera, ma le vedrete nel libro, c'è cioè lo scenario dell'antropocene o comunque di quello che sta avvenendo a livello di cambiamento climatico e ovviamente l'impatto che questo sta avendo sul nostro territorio e sul nostro modello di sviluppo. C'è una visione netta, ma c'è appunto questo che hai detto tu, Flavio, adesso. Appunto, abbiamo parlato un'oretta, secondo me sarebbe bello se ovviamente... Mi permetti? Sì, cosa. C'è un'ultima cosa, perché c'è un personaggio, Arianna Lanzinger, che abbiamo nominato, ma è rimasto un po' nell'ombra. Allora a questo punto vi leggo il primo incontro fra Alex e Arianna Lanzinger, tanto per una delle parti che a me piace di più. Arianna Lanzinger è uno dei personaggi che adoro, secondo il mio personaggio preferito, ed è l'antagonista di Alex in un certo senso, e secondo me è interessante presentarla, così abbiamo fatto una abbiamo parlato un po' di tutti i personaggi. Lo studio di Arianna Lanzinger stava sospeso in alto in un erker che dava su via Cassa di Risparmio e si affacciava sul centro storico di Bolzano. Nel nitore del pomeriggio gli edifici avevano volumi netti, taglienti, geometrie perfette che, come quinte in un teatro, guidavano l'occhio verso le balze del catinaccio. Col loro profilo austero vegliavano sulla città. Con indosso cappotto e cappellini di feltro a falde sottili, l'editrice mi accolse nel corridoio e mi invitò a entrare, dicendomi di attenderla per qualche istante. Le parole scivolavano morbide sulle sue labbra, un'esplosione cremisi nel candore diafano del suo volto, un vulcano spalancato sulla tundra. La stanza era un'autentica Wunderkammer. La Lanzinger collezionava infatti ninnoli tirolesi. In un angolo dello studio una vecchia Schürze se ne stava appesa alla parete, accanto a una coppia di ciaspole di legno appoggiate al muro. Sopra una madia, protetta da una teca di vetro, riposava una collezione di cartoline d'epoca. Raffiguravano il Krampus in alcune delle sue numerose incarnazioni. C'era il Krampus aviatore, il Krampus playboy, quello rapitore di bambini. C'era pure un Krampus proletario, terrore dei bravi operosi borghesi. Nell'angolo opposto, la grande stufa rivestita di maiolica verde riscaldava l'ambiente. Non avevo mai capito che tipo di impulso spingesse le persone a collezionare oggetti. In mezzo a quei memorabilia mi sentivo come tra i vialetti di un cimitero, preso dal timore che, da sola, la mia presenza bastasse a turbarne l'equilibrio. Mentre mi perdevo tra gli orpelli disseminati in tutta la stanza, una vecchia melodia, richiamata da una trasmissione radiofonica ascoltata distrattamente poco prima, mi affiorò alle labbra. Cream colored ponies and crisp apple strudels. Il titolo della canzone mi sfuggiva. Eppure andai avanti con maggior convinzione a sussurrare la seconda strofa. Doubles and slibbles and schnitzel with noodles. Arianna Lanzinger ricomparve alle mie spalle da una porta laterale. Julie Andrews era divina in quella parte, non trovi? Tra l'altro io c'è una parte dico che a me è piaciuta molto, ma non la volevo nominare perché volevo lasciare il gusto a chi non ha letto il libro di farlo, invece in cui c'è sempre la nostra Lanzinger e c'è un'ambientazione, cioè sostanzialmente un ospite che viene da un relatore da fuori a un evento a Bolzano, una situazione devo dire che proprio... ho percepito della realtà. Perché è successo davvero, sì, in un altro posto, sì, quel relatore esiste davvero, esatto. Una persona reale, un mio amico, le persone che ci gravitano intorno in quel momento sono altri caratteri che se hai frequentato Bolzano probabilmente potrai dire ma quello mi ricorda lui, quella mi ricorda lei, ed è vero. Sì, diciamo, è una scena un po' di provincialismo ad alto livello, cioè quando il provincialismo è però a livello di un po' di simil berlinese ma alla bolzanina, ma lo leggerete nel libro. Se ci sono delle curiosità, domande o qualcosa, per chi, non so quanti hanno già letto il libro, questo lo ignoriamo, magari nessuno, quindi lo scopriranno dopo e ti fanno le domande dopo scrivendoti. Oh, bellissima domanda. Come vorrei cambiare? Beh, intanto mi piacerebbe che ci fosse, che fossimo in grado di avere un racconto più vario di noi stessi, cioè che ci fossero più voci in grado di raccontarci. E in quelle voci probabilmente si troverebbero tanti modi per poter dire mi piacerebbe essere così, mi piacerebbe assomigliare di più a quel personaggio, di più a quel racconto. Nel romanzo io ho provato a fare vedere alcune cose che mi piacerebbe cambiare, mi piacerebbe essere più legati al resto del mondo, credo che questo stia succedendo. Alex ha una maledizione, un'altra purtroppo maledizione, il personaggio di un libro, lui non potrà più cambiare, io sì, ho questo privilegio, e nella mia vita, da quando il libro è stato finito a oggi, sono cambiate delle cose, quindi la mia visione è diversa rispetto a quella che è distillata in questo libro, probabilmente ancora più ottimistica. Credo che ci siano tantissime persone oggi che stanno lavorando in Alto Adige per cambiare le cose, ci provano a essere appunto più connessi, più collegati col resto del mondo, a farsi influenzare, ad avere una dimensione, una visione che non si guarda più soltanto all'ombelico, che non è più legata a rimuginare sul passato, a vedere i debiti che non sono stati pagati e che invece dovrebbero essere pagati, ma invece prova ad andare oltre quella dimensione. Ecco, forse a me piacerebbe questo, sentirci un po' più liberi da quelle che sono state le catene del nostro passato, che è stato tragico, con cui non possiamo non confrontarci, ma che oggi non può diventare una zavorra che ci tiene legati sempre, comunque, che ci obbliga a riguardarci in faccia, a ridirci sempre le stesse cose, a farci sempre le stesse accuse. Forse potremmo cominciare a mettere da parte queste catene e semplicemente a guardarci intorno e a chiederci che cosa possiamo imparare da tutto quello che ci sta intorno, per poter diventare noi migliori, più generosi, più aperti, più accoglienti, più intelligenti, più sostenibili. Non ho una visione, non ho un quadro, sarei molto contento, ecco, sarei un pensatore di altissimo livello se io potessi avere un'utopia da offrire alle persone con cui le persone potessero confrontarsi. Non arrivo a quel livello lì, però provo a dare dei flash o degli spunti. Sì. Ho sentito sono rimasti in memoria due passaggi. In uno si dice che hanno ucciso la speranza, però poco fa ha detto che c'è la speranza di vedere la luce. Allora la speranza è viva, morta o viva? In realtà il passaggio dice, il protagonista Alex in quel passaggio in realtà dice, l'Alto Adige comincia a fare quello che fa di solito, uccidere la speranza, ok? Non l'ha uccisa, la sta uccidendo, la continua probabilmente a uccidere nella visione del protagonista. Per me c'è speranza, la speranza è viva, la speranza è l'ultima a morire banalmente, ma se non avessi speranza che le cose possano cambiare, sarebbe molto difficile andare avanti, svegliarmi tutte le mattine. Ma cambiare significa anche cambiare le piccole cose quotidiane della propria vita, come anche provare a spingere o auspicare un cambiamento di portata maggiore. Però no, la speranza non è morta, se no. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per quanto questo libro, lo raccontavo prima, nasce il materiale preparatorio da cui questo libro germina è materiale di un reportage narrativo. In parte ci sono degli elementi di autobiografia, i personaggi sono personaggi di finzione, hanno una vita loro, delle opinioni loro e, come dicevo parlando poco fa, i miei personaggi sono condannati a restare uguali. Io ho il privilegio di poter cambiare e la mia visione non è più la stessa, in parte lo è ancora, ma in alcuni punti si è smussata e cambiata perché ho fatto delle esperienze che non avevo fatto nel momento in cui ho scritto il libro. Allora, in questo romanzo comincio a trovare un senso di collettività, che però è un senso di collettività molto conviviale, molto familiare. Chi lo sa se un senso più sociale e politico sarà materia per un altro romanzo. In questo non lo trova. insomma, compratelo così va bene, l'editore me ne fa fare un altro. E magari appunto ci prendiamo questo spunto e lo elaboriamo prossimamente. Col fantasma di Berloffa, tanto. Col fantasma di Berloffa che ci stavo pensando prima, viene retrospettivamente chiamato da Romano Prodi nella famosa seduta spiritica del 77 e rivela che è il cadavere di Moro al lago della duchessa. Però è Berloffa che non è ancora morto. Facciamo una cosa così pazza alla Antoine Volodin, potremmo provare a farlo. La copertina. L'abbiamo tutti. Allora, insieme. La copertina. Ci tenevo in modo enorme che ci fosse questo fotogramma di tutti insieme appassionatamente, con Julie Andrews che balla nel prato fiorito con il sottofondo delle Alpi, insomma, con lo sfondo delle Alpi austriache. Julie Andrews è ovviamente poi citata nel passaggio. Questo numero nello specifico di Tutti Insieme Appassionatamente si intitola The Hills Are Alive, le colline sono vive, e Julie Andrews canta The Hills Are Alive with the Sound of Music, le colline sono vive col suono della musica, mi parlano da secoli, la natura è qui da secoli, mi parla, e celebra la comunione mistica dell'individuo con la natura. Avviene, se non sbaglio, nel momento di crisi della storia raccontata da Tutti Insieme Appassionatamente. Volevo che fosse in copertina perché Tutti Insieme Appassionatamente è uno di quei prodotti della cultura pop che deposita nel nostro immaginario quello che è l'immaginario alpino costruito sulla base degli stilemi pittoreschi elaborati nell'Ottocento. Ok, quindi è il velo, sono quelle immagini di idillio che vengono dalla pittura ottocentesca e che ovviamente elabora sulla scoperta, l'invenzione delle Alpi che comincia a metà del Settecento con gli illuministi che scoprono le montagne, che finalmente si rendono conto che le montagne non sono il nulla dove non c'è niente, che si portavano, gli intellettuali europei si portavano dietro ancora dalla cultura latina, iniziano a di fatto fare delle esplorazioni scientifiche dietro casa, fanno la stessa cosa che facevano gli esploratori che andavano al Polo Nord, cominciano a costruire questa immagine delle Alpi che si deposita nell'immaginario come sintesi di estetica e morale, perché poi le Alpi e nello specifico un'immagine come questa è di fatto la sintesi della natura idilliaca che riempie l'uomo di moralità. Maria è un personaggio incredibilmente morale che va a salvare l'ufficiale austriaco da se stesso, dal matrimonio che distruggerebbe la relazione con i suoi figli, gli fa capire che il nazismo e il male scappano via, c'è un polpettone Tutti Insieme Appassionatamente, però rappresentava secondo me alla perfezione questo velo che io sento cadere su di noi e sovradeterminarci. Qualcun altro? Vedo che non c'è voglia di acquistare il libro. Vuoi leggere la scena che dicevi? Ma non la trovo. Non la trovi, la trovo io, trovato, dai. Così vabbè, facciamo. Mi piace veramente molto. Sì, ti piaceva molto, ok, è questa. Vediamo da dove tipo un Valentin. Sì, assolutamente. La scena, insomma, la scena si svolge dopo che Arianna Lanzinger ha fatto un enorme cazziatone ad Alex dicendogli: cosa hai scritto? Tu sei pazzo, questa roba è lontana anni luce da quello che hai in mente. Devi riscrivere tutto, hai 3 settimane di tempo per farlo. Alex dice: ma forse lei è l'editrice, io sono un povero sfigato, c'ha ragione lei. Domani devi venire assolutamente a questo evento, ti faccio conoscere un po' di gente giusta io, così capisci cosa devi scrivere, eccetera. Quindi lo invita ad andare a vedere una performative lecture alla Casa della Pesa di Piazza del Grano. Ovviamente coglionatissimo Alex, ci deve andare, mezzo litiga con Serena perché insomma no, io sono incinta, te ne vai eccetera, piove che Dio la manda, il fradicio si infila le scarpe dentro una pozzanghera, proprio il massimo della rottura di palle. Entrai da una delle due arcate che si aprivano sulla piazzetta. Il soffitto incombeva su un ampio atrio immerso in una quieta penombra. Piccole acute volte a botta ne scandivano lo spazio. L'unica luce proveniva da un faro alogeno che illuminava un angolo della parete di fondo, dove erano disposti una sedia e un televisore acceso su un canale morto. Piccoli capannelli di persone si raccoglievano qua e là cercando intimità sotto le nicchie. C'era molta meno gente di quanto immaginassi, ma la constatazione non mi fu di granché di sollievo. In una situazione più affollata sarebbe stato più facile passare inosservato. Su un tavolino accanto all'ingresso una fila di calici di vino bianco assomigliava a un plotone di soldati in attesa di essere fucilati. Ne presi uno per darmi un tono. Fu a quel punto che Arianna mi vide e mi venne incontro. «Oh, mi chiedevo quando saresti arrivato, la lecture dovrebbe cominciare a breve», mi informò con una dolce sfumatura di rimprovero nella voce che mi fece sentire in dovere di giustificarmi. «Scusami, ci ho messo un po', sono venuto in bus da Lives». Mi prese sotto braccio. «Vieni, ti presento qualcuno», disse, trascinandomi verso un gruppetto di persone. Alcune le avevo già viste in giro a qualche concerto o festa all'aperto, erano una clique di microcelebrità locali, stavano discutendo di quale fosse il miglior club di Berlino con l'aria di chi frequenta la capitale tedesca ogni fine settimana. Conoscevo giusto un paio dei locali che menzionarono, erano quelli che apprezzavano di meno, mentre a me erano sembrati cool. «Magnifica città, Berlino», dissi con un tono di voce leggermente sovrastante, «ho sempre l'impressione che lì la gente sia libera di essere chi vuole senza per questo venire giudicata». Annuirono tutti e mi sentii rassicurato. «Alex è uno scrittore», disse Arianna per introdurmi. «Preferisco dire che sono uno scrivente», puntualizzai sorridendo prima che qualcuno potesse chiedermi che cosa avessi pubblicato fino a quel momento. Una ragazza non molto alta, dai capelli ondulati rossi e con pantaloni di pelle color cioccolato e trench abbinato, dichiarò di aver letto alcune delle mie newsletter. «Le ho trovate divertenti», disse, ammiccando dietro le sue lunghe ciglia. Per qualche ragione mi ricordò una cucciola di cocker. Avrei voluto chiederle quali delle newsletter le fosse risultate divertente per capire cosa avessi sbagliato, ma preferì lasciare che l'attenzione si spostasse da me. «Oggi sono andata a trovare Mauri nel suo studio», riprese Arianna cambiando argomento. «Abbiamo discusso i dettagli tipografici della guida. Era la prima volta che la vedevo così eccitata. Iniziò a discutere dei pregi e dei difetti delle rilegature in brossura rispetto a quella cucita a filorefe e a magnificare la grammatura uso a mano della carta, che era ovviamente la più adatta alle pagine interne di una guida alternativa. Ebbi la sensazione che sarebbe potuta andare avanti per ore senza che nessuno dei presenti mostrasse alcun segno di noia. Sapeva condurre la conversazione con la precisione di un direttore d'orchestra, senza scordarsi di nessuno. «A proposito, Rebecca, come va la tua startup?» domandò poi a una ragazza bionda che indossava un vestitino color verde bosco con una catena dorata legata alla vita a sostenere una pochette di Louis Vuitton. Aveva labbra carnose e un volto dai contorni morbidi allungati. «Ah, abbiamo appena pivotato», le rispose. Tutti annuirono come se sapessero esattamente di cosa stesse parlando, e probabilmente era vero. «Purtroppo siamo ancora lontani dal break even», continuò. «Contiamo di raggiungerlo all'inizio del 2020. Aspetta e spera, Rebecca», aggiunse con un sospiro. «Per fortuna Sandro, di Universi Diversi, mi ha dato qualche ora a scuola questo mese», concluse con un altro sospiro. Non avevo idea di chi fosse costui, ma non volevo restare tagliato fuori dal discorso, perciò le chiesi di che cosa si occupasse la startup. «Rebecca vuole portare il Loden nel ventunesimo secolo», si intromise un tipo dall'aria hipster vestito con una tuta di acetato viola e arancione fluo. Sotto al cappellino da baseball indossava occhiali da sole dalla montatura di plastica bianca. Sembrava un clone di MC Fitti. «Organizza e finanzia residenze per designer e artisti che vogliono innovare usando la lana cotta. Il ragazzo mi disse di chiamarsi Valentin e che aveva appena lanciato il suo progetto cantautorale, ma anche lui, come Rebecca, quel mese il lunario lo avrebbe sbarcato grazie a Sandro di Universi Diversi, che gli aveva commissionato un laboratorio di musica in un centro giovanile. Ne dedussi che tutte quelle persone riuscivano a pagarsi bollette e abiti griffati collaborando a vario titolo con la cooperativa Universi Diversi, che prima di allora non avevo mai sentito nominare». Sì, povera Rebecca, doveva arrivare a break even all'inizio del 2020. Shit happens, purtroppo. È andata come è andata, chi lo sa. Grazie Flavio, grazie a te, grazie Valentino. Grazie di questo libro, grazie di svelarci un po', aiutare a svelarci un po' questo nostro piccolo posto antico. Grazie a voi, grazie a tutti voi che siete venuti qui questa sera.